passato tante notti ad aspettarti, ma ho vissuto mille volte senza un perché. Ho passato e passo ancora il tempo insieme a te, e passerò i momenti bui senza morire. Ma tu chi sei? Ma tu che fai? Ho giocato a far castelli in cui io ero il re. Ho disegnato tetti rossi e un prato in fiore. Ho imparato ad essere uomo, un uomo senza te. Ma cosa sono senza un foglio dove scrivere? Ma tu chi sei? Ma tu che fai? Leggero, parlo col cuore, scrivo una canzone d'amore. So che lo faccio a modo mio, solo che sai, sono io. E sentirò che nel tuo mondo sono acceso e mai mai spento. E capirai che queste parole sono le solite per capire. Ma tu chi sei? Ma tu che fai? Sono troppe, troppe le parole che dico sempre senza una ragione. E a volte credo solo che ci vuole una parola d'amore. E non c'è niente di più banale in questo testo con quattro rime. Ma sono quelle che più facilmente, come te, riconosco fra tante. Ma tu chi sei? Ma tu che fai? Io mi chiederò, ma forse già lo so, solo per paura, comunque ti dirò. Ma tu chi sei? Ti cerco ovunque oramai. Sentirò che nel tuo mondo sono acceso e mai mai spento. E capirai che queste parole sono le solite per capire. Ma tu chi sei? Ma tu che fai? Ma tu che fai? Che fai? Che fai?